Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. Buon pomeriggio, ben ritrovati qui su Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone. Quest'oggi parliamo di un tema molto importante. Vediamo se lo capite ascoltando questo brano. Dust on the wind, boots on the ground, smoke in the sky, no peace found. Rivers run red, the drums roll slow. Tell me, brother, where do we go? Raise your hand, don't look away. Sing out loud, make pay. March for peace, not for pride. Let that flag turn with the tide. Guitars cry out, bullets fly. Così si conclude questo brano con cui apriamo lo Zibaldone di quest'oggi. Non vi dico di chi si tratta, prima do il benvenuto e auguro buon pomeriggio al nostro ergonomico Banzo. Banzo, bentornato a Zibaldone. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Suppongo che tocca a me dire sì. L'autore di questo brano. Beh, forse ricorderete che nell'Odissea Ulisse si presentò come nessuno per ingannare il ciclope Polifemo. Io potrei rispondere allo stesso modo, cioè l'autore di questo brano non è Ulisse, ma nessuno, in quanto si tratta di un brano generato con l'intelligenza artificiale. Comunque l'etichetta che c'è sopra è The Velvet Sundown e il titolo del brano è Dust on the Wind. E direi che con questo preambolo abbiamo abbondantemente introdotto il tema della puntata. Sì, è intelligenza artificiale questa sconosciuta, un tema enorme che noi declineremo soprattutto legato appunto alla musica, alla creatività artistica. Era un po' insomma d'obbligo cominciare con un brano come questo, perché Banzo, quest'estate questo brano ha avuto insomma un certo successo, perché no, a luglio del 2025 per un periodo è stato in vetta alla playlist Viral 50, Viral 50 di Spotify nel Regno Unito. Sì, esatto. Poi questo tipo di successo è anche abbastanza ambiguo, perché c'è un po' l'effetto camera dell'eco, diciamo, nel senso che poi a un certo punto le canzoni vengono scelte dagli algoritmi e si crea un effetto valanga, appunto, che favorisce questo tipo di successo. Se ormai copie fisiche non ne circolano più, neanche degli artisti più noti. Comunque sì, appunto, questo brano è stato in testa a una classifica nel Regno Unito. Il gruppo aveva pubblicato due album nel giugno 2025 dal nulla, con questo suono molto rock 70s, diciamo. E sostanzialmente, per quale motivo diciamo una canzone generata dall'intelligenza artificiale può arrivare in testa a una classifica, benché di un servizio streaming, non di vendita, appunto? Beh, semplicemente è perché c'è una caratteristica che è molto presente nell'ascolto di musica di oggigiorno, che è la playlist. Quindi con l'inserimento in una playlist, diciamo una playlist sufficientemente estesa che viene usata come sottofondo con molti brani famosi e così discorrendo, una canzone creata con intelligenza artificiale passa, diciamo così, inosservata e può arrivare a grande successo. Perché viene prodotto questo tipo di materiale? Beh, innanzitutto perché a volte viene prodotto in-house, per così dire, perché Liz Pelli, la giornalista Liz Pelli, nel suo libro Mood Machine, svelava che Spotify ha un dipartimento apposito e la ragione probabilmente è quella di risparmiare sui diritti d'autore. Cioè, appunto, grazie al meccanismo delle playlist, tu generi delle canzoni artificiali e quelle non le paghi. E vorrei ricordare che comunque Spotify paga fra gli 0,003 e gli 0,005 dollari americani per ogni stream, quindi farete voi le vostre conclusioni. Beh, insomma, qui ci sono tante questioni interessanti. E noi quest'oggi avremo un ospite che cercherà un po' di spiegarci che cosa sta succedendo. Lei, tra l'altro, è cantautrice e quindi è molto addentro del mondo della musica. Sto parlando di Irene Buselli, ma allo stesso tempo è anche ricercatrice in intelligenza artificiale presso l'Università di Genova. Quindi cercheremo di capirne qualcosa di più con lei, da questa, no, i due versanti, quello più tecnologico e quello poi appunto anche più artistico creativo. E rapidamente, perché sennò poi il tempo è tiranno in radio, Banzo, noi abbiamo scelto alcune canzoni che hanno a che fare appunto con l'intelligenza artificiale oppure che hanno a che fare con i computer nei loro testi, ma sono state create da umani nel passato, come ad esempio il brano che ci ascoltiamo ora prima di chiacchierare con Irene Buselli, che è The Robots, fine anni 70 dei Kraftwerk. Sì, 1978, grandissimo classico e forse il brano che a distanza di quasi 50 anni ha fatto sì che tutti associno i Kraftwerk all'immagine del robot, e d'altronde era anche contenuto in un disco che si intitola The Man Machine. E bisogna dire, Wolfgang Fluhr, uno dei quattro membri all'epoca dei Kraftwerk, nel 2003 pubblicò una autobiografia ed era intitolata I Was a Robot, quindi proprio un immaginario onnipresente. Il brano uscì anche in tedesco col titolo di Roboter, però è degno di nota un verso che è in russo, Yat voi sluga, Yat voi robotnik, scusate la pronuncia, che vuol dire sono il tuo servitore, sono il tuo lavoratore o operaio, secondo di come vogliamo tradurlo, che omaggia le origini slave del termine robot, che però fu coniato da uno scrittore ceco, Karel Čapek. Grandissimo Karel Čapek, andiamo a ascoltarci questa The Robots che avete già sentito un po' di sottofondo. We are the robots. L'ospite della puntata di quest'oggi è Irene Buselli. Lei è cantautrice, abbiamo già passato alcune sue canzoni qui a Zibaldone e anche quest'oggi manderemo in onda qualcosa di suo, ma oggi soprattutto è qui in veste di ricercatrice in intelligenza artificiale, lo è presso l'Università di Genova. Irene, innanzitutto benvenuta a Zibaldone. Ciao, grazie dell'invito. Ascolta, parliamo di un tema che tra l'altro insomma per te è importante sia dal lato professionale che dal lato anche diciamo della tua passione, la canzone, mm-hmm. la musica, e cominceremo diciamo da una domanda un po' se vuoi così anche preliminare, cioè da specialista dell'argomento, come valuti tu la comprensione del fenomeno dell'intelligenza artificiale da parte essenzialmente del grande pubblico? Cioè quali sono, chiamiamoli così, travisamenti più comuni e come credi che ci siano insomma degli errori di comprensione, questi errori di comprensione possano o stiano orientando il dibattito pubblico al riguardo? Intanto diciamo che secondo me c'è una grande confusione su che cosa sia l'intelligenza artificiale, quindi proprio la base, nel senso che noi usiamo questa parola per definire alcune cose e non altre, in modo in realtà molto arbitrario e molto guidato più che altro da quello che è stato al centro magari delle cronache, dell'hype generale negli ultimi anni. Per cui con intelligenza artificiale tendenzialmente negli ultimi anni si definisce magari ChatGPT, si definisce tutto ciò che genera delle immagini, che genera delle cose, mentre in realtà questa è intelligenza artificiale generativa, che è una sottobranca, che è quella che più recentemente si è presa spazio, ma noi parliamo di intelligenza artificiale nel mio lavoro da prima degli anni 2000, quindi... è un tema in realtà molto ampio e che ha avuto molte definizioni diverse nel tempo. Diciamo la definizione più sintetica di intelligenza artificiale, almeno tecnicamente, sarebbe tutti quei sistemi automatici che fanno mimesi dell'intelligenza umana, quindi che fanno compiti che se svolti da un umano richiederebbero intelligenza. Ovviamente questo si applica a tantissime cose, nel senso che sotto questa definizione pure il correttore di Word che abbiamo da decenni è un'intelligenza artificiale, no? Certo. Poi nella pratica, nel tempo, diciamo, si è sviluppata una branca specifica dell'intelligenza artificiale che si chiama machine learning, che sono tutti quei sistemi di apprendimento automatico, appunto, dove la macchina non impara perché qualcuno le dà le istruzioni, ma impara autonomamente dai dati. Quindi vuol dire, io non ti dico per distinguere la foto di un cane da quella di un gatto, guarda, il gatto ha le orecchie a punta, le vibrisse, mentre il cane è fatto colà, ma ti do 100 immagini di cani, 100 immagini di gatti, tu nel tuo modo, con la tua matematica, impari, tua macchina, e poi a questo punto, quando io ti farò vedere la 201esima foto, saprai dirmi se è un cane o un gatto. Quindi la differenza sostanziale tra apprendimento automatico e invece programmazione standard è questa qui. Diciamo che l'intelligenza artificiale adesso comunemente, secondo me, indica, anche proprio tra tecnici quando ne parliamo, il deep learning, cioè quella parte di machine learning molto molto avanzata che si fa con le reti neurali tipicamente, che è un algoritmo abbastanza complesso e per questo anche problematico, perché non vedi bene cosa c'è dentro, diciamo. Quindi diciamo che è una parte molto avanzata dell'apprendimento automatico, del machine learning. Per cui già questo, diciamo, è la prima confusione che vedo fare spesso. Sì. In particolare poi appunto su come funzionino le intelligenze artificiali di cui si parla tanto c'è confusione, ma perché è una cosa non solo difficile, ma in realtà per certi versi è la più sconosciuta alle persone che la conoscono di tutte le tecnologie che siamo abituati a pensare, nel senso che io non so come funziona la mia lavastoviglie, però chi l'ha fatta lo sa bene. Mentre in realtà chi crea un large language model, quindi un modello generativo del linguaggio, non ti sa spiegare esattamente perché ha scritto quella frase o ha generato quell'immagine. Perché in realtà dentro c'è un sistema probabilistico per cui parola dopo parola il modello prevede la parola che più probabilmente starà bene con quella precedente. Sì, questo sì, crea delle affermazioni, delle immagini che sono molto verosimili e che danno la sensazione che dietro ci sia qualcuno di intelligente, però poi in realtà non è né intelligente né programmata da un essere umano, per cui in realtà c'è questa parte di non controllabilità che a suo modo è anche affascinante, nel senso che il fatto che uno strumento che semplicemente prevede la cosa più probabile assomiglia così tanto all'intelligenza umana ci fa anche pensare, no? su cosa si basa in realtà poi questa nostra presunta intelligenza. Beh, la tematica è immensa e ti ringrazio per aver messo, no, sul tavolo una serie di elementi che aiutano, immagino anche gli ascoltatori, a comprendere meglio di cosa stiamo parlando, no? E quali sono anche un po' le difficoltà a volte per utilizzare un linguaggio corretto per definire tutta una serie di processi. E passiamo alla musica, perché, no, quando si parla di intelligenza artificiale in musica, ecco, la percezione comune è un po' un'antitesi, no? Quasi la negazione, quasi la morte, diciamolo così, della creatività. Si è parlato poco, forse, o relativamente poco fino adesso, di come l'intelligenza artificiale può coadiuvare e potenziare processi creativi umani. Tu in parte in realtà lo stavi anche, no, già un po' accennando. Cioè, ci stiamo perdendo qualcosa o si sta, no, cominciando a profilare all'orizzonte nei prossimi anni qualcosa di molto interessante? Come la vedi tu? Visto che poi tu, ecco, la cosa che ci interessava molto del tuo profilo è che, essendo anche cantautrice e musicista, hai una sensibilità maggiore probabilmente che altri ricercatori nella parte di creatività artistica e musicale. Faccio una piccola deviazione, poi se vado troppo lontano mi riacchiapperete, però una cosa che secondo me c'è da dire è che l'intelligenza artificiale nel mondo della musica c'è da tanti anni ed è quella che guida i nostri ascolti, nel senso che tutte, esatto, le piattaforme di streaming, il modo in cui ci consigliano cosa ascoltare è intelligenza artificiale. E tra l'altro questa cosa ha un impatto forse più grosso di quello che magari molti ascoltatori che non fanno questo di lavoro potrebbero aver presente, nel senso che il fatto che il famigerato algoritmo di Spotify decida cosa girerà e cosa non girerà fa sì che in realtà proprio la produzione umana è già in qualche modo ingegnerizzata per avere il ritornello che cade prima del primo minuto, avere la canzone che non è troppo lunga, che assomiglia a qualcos'altro che già funziona perché così l'algoritmo penserà che funzioni. Quindi in realtà c'è già un impatto molto grosso nella creatività umana da parte dell'intelligenza artificiale in questo modo indiretto, no? Yes. Per cui sono tanti anni che c'è questo utilizzo, è anche un impatto secondo me in buona parte negativo, nel senso che Spotify ha fatto diventare la musica essenzialmente un prodotto che deve massimizzare una metrica, la metrica è quella del suo algoritmo. Chiaramente questo già si allontana molto dall'idea di creatività, anche senza voler essere dei grandi romantici, dei grandi puristi, comunque insomma c'è una bella differenza tra fare della musica che serva per venire macinata dall'algoritmo e finire in più playlist possibili, oppure fare della musica come atto creativo. Tra l'altro su questo c'è un bellissimo saggio di Liz Pelli che si chiama Mood Machine, il costo della playlist perfetta, che ne parla in modo molto interessante. Poi detto questo, invece, per quanto riguarda quello che sta succedendo ora, sicuramente diciamo che il momento temuto un po' è alle porte, nel senso che effettivamente le macchine stanno imparando a fare della musica molto verosimile. In molti sensi, sia dal più goliardico, nel senso che abbiamo Frank Sinatra che canta i Metallica e Jerry Scotti che canta ogni cosa, ma anche in modo molto più sofisticato. Cominciamo ad avere tanta musica su Spotify che è generata in modo automatico. Secondo alcune stime addirittura potrebbe essere il 10% delle nuove uscite ogni settimana in realtà essere musiche AI. Ci sono delle band che probabilmente sono band AI che cominciano ad essere nelle classifiche. I Velvet Sundown, no? Per esempio. Esatto, un esempio, sono questa band qui. Cominciano ad esserci dei fenomeni anche un po' preoccupanti, tipo dei deepfake musicali, per cui potrebbe esserci un altro profilo di Irene Buselli con delle canzoni che hanno la mia voce, più o meno le mie sonorità, che però non ho scritto io, ma che è stata generata automaticamente, no? Comincia a succedere. Quindi sicuramente appunto siamo arrivati al punto in cui c'è una verosimiglianza abbastanza forte, e anche dal punto di vista creativo app come ad esempio Suno, che non so se ti è mai capitato di usare anche solo per gioco, generano della musica ormai non solo verosimile ma anche tecnicamente utile, nel senso che ti possono poi dividere l'output negli stem, quindi ti generano la chitarra divisa dalla voce, divisa dalla batteria, e tu poi puoi scaricare ed editare, no? Per cui, certo, potenzialmente tu puoi scrivere un riff di chitarra riconoscibile e un'idea di testo, con Suno ti fai fare la linea melodica della voce e la linea di basso, e poi scarichi tutto, rimescoli, editi in base ai tuoi gusti, e in realtà puoi dire di aver fatto una canzone tu, anche se nel mezzo ovviamente c'è un passaggio abbastanza rilevante. Questo ovviamente apre una serie di quesiti, nel senso che sicuramente, come dire, questa cosa entrerà nella musica, direi, senza voler avere la spalla, bolla di cristallo, però diciamo... In un modo o nell'altro ci sta entrando. Sicuramente c'è un modo creativo di usarla, nel senso che può essere una specie di suggeritore di idee, e per certi versi non è diverso da altre cose, nel senso che ad esempio a me è capitato di usare ChatGPT come una specie di rimario aumentato, nel senso che avevo bisogno di una parola che rimasse con un'altra, ma la volevo anche di un certo campo semantico, di un certo tipo. Non è una cosa diversa da usare un rimario, il libro rimario, certo, nel senso che certo, si usa da anni, semplicemente un po' più, ti aiuta un po' di più, no? Però ovviamente quando diciamo si passa... Diciamo che è un altro livello, ecco, in ogni caso, no? Quello, esatto. Esattamente. Ma guarda, volevo toccare un punto che tu in realtà hai in parte già spiegato, ma mi sembra molto interessante e lo vorrei un po' ampliare. Quando hai fatto, diciamo, la parentesi iniziale, no? Ossia sul ruolo, no? Citavi gli Spelli e Mood Machine, ovviamente gli algoritmi di Spotify, eccetera, eccetera, no? Cioè qui una cosa già molto visibile, molto presente, non futuribile, è anche appunto il peggioramento dell'esperienza musicale dell'ascoltatore medio e anche il ruolo di alleato, per così dire, dei giganti dello streaming, dell'intelligenza artificiale, che, voglio dire, è una possibilità molto reale. Ma in più aggiungerei, e mi piacerebbe, no, che tu anche ci dicessi la tua al riguardo, c'è anche una questione sui diritti e sulla proprietà intellettuale, ossia chi può reclamare i diritti di un d'autore di una canzone generata da processi algoritmici, dall'intelligenza artificiale, e sul lungo termine, no? Tu ci parlavi anche del caso appunto del deepfake o di un Gerry Scotti che canta, no? O Frank Sinatra che canta un'altra cosa, o insomma chi lo canta, e cioè queste difficoltà d'attribuzione possono appunto anche portare a ripensare il diritto d'autore come lo conosciamo oggi? Ecco, non so se hai fatto delle riflessioni anche al riguardo. Allora, sicuramente è un tema importante, lo è tra l'altro non solo per la musica, forse prima di noi ancora sono stati impattati tutti quelli che fanno arti visive, nel senso che effettivamente c'è stato il caso Miyazaki, ce ne sono stati tanti di casi ultimamente in cui uno si genera la sua immagine con lo stile di Pippo, e se l'avesse veramente disegnata Pippo ci sarebbe un copyright, siccome in realtà l'hai disegnata tu col tuo computer che semplicemente ha copiato qualcun altro, cosa succede? Domanda. Ovviamente siamo in una fase in cui la tutela del diritto d'autore con le AI è veramente ancora molto nebulosa, con tanti punti di oscurità che appunto non sono ancora veramente normati. Anche con le AI Act, con tante cose che si stanno facendo, in realtà si punzecchia il problema da vari lati, ma non è che veramente si arrivi a un punto. Sicuramente appunto una cosa difficile da definire, oltre a chi è che fa la canzone, che in questo momento, diciamo, questa ambiguità è molto sfruttata ad esempio dalle piattaforme, nel senso che Spotify già prima dell'intelligenza artificiale pagava delle aziende terze per produrre della musica, diciamo, d'ascensore, per capirci, sì. Senza alcuna creatività dietro, dicendo appunto che non avrebbero preso i diritti le persone che la creavano, e in questo modo ottenendo della musica gratis che si poteva far viaggiare sulla piattaforma generando introiti, ma senza dover pagare nessuna SIAE, per farla breve. Quindi dal punto di vista di chi crea la canzone che io creo con Suno, potenzialmente io, potenzialmente nessuno, ma ancora di più il problema è, ad esempio, recentemente ho provato a fare un esperimento e chiedere una canzone a Suno con certe caratteristiche, mi ha fatto una canzone che era chiaramente ispirata a una canzone di Luis Capaldi, in modo molto chiaro. E lì cosa succede? Valgono le stesse regole che varrebbero per un plagio umano, nel senso che ovviamente anche cioè il diritto del plagio è normato, ed è che tu puoi assomigliare non più di un tot, diciamo, per farla breve, poi ovviamente ci sono delle specifiche, Che differenza c'è tra io che sono una grande fan di Bon Iver e Florence and the Machine, magari nella mia musica si sente, e invece un'app che rimescola esattamente Bon Iver e Florence and the Machine e fa un'altra cosa. Chiaramente questo è un chiaroscuro molto, molto serio che a un certo punto spero che arrivi a essere normato o quantomeno a diventare talmente integrato nelle nostre vite da poi essere normato come gli esseri umani, però insomma in qualche modo spero che si esca da questa zona di grigio in modo non eccessivamente, diciamo, non troppo con le ossa rotte per la musica. Non so se ti ho risposto. No, assolutamente sì. Certo, qui entra in campo un'altra questione che riguarda le legislazioni esistenti e appunto come legislare per regolare, no, l'intelligenza artificiale. Ovviamente in tanti ambiti, noi qui ci stiamo concentrando in questa chiacchierata insieme a te, sì, nell'ambito della creatività. Il mio dottorato personalmente, che appunto non c'entra con l'IA generativa, è in algorithmic fairness, che vuol dire come fare in modo che gli algoritmi non imparino anche le nostre discriminazioni, no? Perché in realtà quello che fanno imparando da soli è imparare tutto il bello e tutto il brutto di noi esseri umani, quindi anche ad esempio a non assumere le donne o a non dare i mutui agli stranieri. E però appunto all'interno di questa ampia branca dell'etica AI sono tanti anni, molti di più di quelli che magari uno immaginerebbe, che si parla di legge ed AI, perché effettivamente su chi sia effettivamente legalmente responsabile di quello che fa l'AI se ne discute da una vita, a partire dalle macchine di Google e da un sacco di altre cose, perché è un punto, è forse il punto centrale delle sfide che ci aspettano. E soprattutto nel contesto politico, geopolitico attuale, diciamo, sembra molto complesso che si riesca ad arrivare a livello internazionale a una regolamentazione dell'IA, ascoltando Trump, vedendo quello che succede tra Stati Uniti, Cina e l'Europa un po' nel mezzo, dove sembra che tra l'altro, insomma, poi dice vabbè, questo è un po' complesso, rimaniamo indietro rispetto agli altri. Sì, sì. Ascolta, hai parlato di una cosa che è molto interessante, che tra l'altro ti vede molto impegnata da tempo, no? Nel 2020 insieme ad Anna Castiglia, francamente Rossana De Pace, avete creato il collettivo Canta Fino a 10, no? Uh-huh. Che è nato proprio per accendere l'attenzione, no, sull'entità del gender gap nel mondo musicale, che è tra l'altro molto maggiore di quanto in genere si pensi, no? In un'intervista tu ricordavi che negli ultimi 10 anni solo 4 canzoni su più di 250 che hanno partecipato al Festival di Sanremo erano interamente scritte da donne, ecco, 4 su 250. E se si guardano, no, classifiche, playlist di Spotify, insomma non sembra che ci siano un grande miglioramento. E questo lo collego alla riflessione che facevi prima appunto su il ruolo dell'intelligenza artificiale, riguardo appunto a insomma discriminazioni esistenti di genere ma anche di altro tipo. Tu come la vedi da questo punto di vista? È vero che tra l'altro insomma ci stai proprio lavorando a capofitto, e cosa si può fare appunto per ridurre questo gender gap, e soprattutto da parte di chi sviluppa le tecnologie, insomma, o gli utenti tra l'altro potrebbero fare qualcosa al riguardo, come la vedi? Allora, io penso che ci sia un punto fondamentale che è importante che teniamo a mente tutti, soprattutto gli utenti che magari hanno meno dimestichezza con questo concetto, cioè che l'intelligenza artificiale è un grande replicatore del mainstream, nel senso che il modo in cui funziona premia la maggioranza, sia perché matematicamente proprio i calcoli sono fatti in modo da apprendere dai dati, e quindi se tanti dati dicono la stessa cosa imparerò quella cosa lì, sia perché nei sistemi generativi appunto funziona a probabilità, per cui io prevedo la cosa più probabile, e la cosa più probabile è sempre quella maggioritaria, no? Sempre l'opinione maggioritaria. Ovviamente non è così, nel senso che cioè non è così deregolamentato, nel senso che anche se vediamo ChatGPT o qualunque altro AI generativa che non sia, diciamo, quella di Elon Musk, esatto, o altre cose chiaramente problematiche, hanno già delle normative interne che gli impediscono di dire cose scorrette, di fare affermazioni platealmente discriminatorie, eccetera. Però anche lì, diciamo, questo funziona a un livello superficiale, poi è uno studio che va avanti e che secondo me andrà ancora avanti per molto, quello di capire come effettivamente rendere questi strumenti impermeabili a tutta una serie di provocazioni a cui invece tuttora sono assolutamente in grado di cadere. Però diciamo il punto è sapere che lo strumento non è neutro, non è neutro mai, nel senso che dipende in prima istanza da chi lo produce, e comunque in questo momento le maggiori aziende di tecnologia che permeano gli strumenti che utilizziamo sono comunque guidate tendenzialmente da maschi bianchi americani, possiamo dire, dicendo proprio ad ampio spettro, quindi non esattamente la cosa più rappresentativa del mondo. Poi diciamo c'è una parte che può essere proprio volontaria, come ad esempio il chatbot di Elon Musk, che per scelta non è politicamente corretto, ma poi c'è anche tutta la parte involontaria, nel senso che per fare un esempio, un documentario interessante che si chiama Code Bias, che è uscito un po' di tempo fa, faceva vedere come a un certo punto ci si è resi conto che uno dei più potenti algoritmi di riconoscimento facciale in realtà era stato testato tantissimo su facce di persone bianche. E quando a un certo punto si comincia a testarlo su facce di persone nere, soprattutto donne nere, aveva un'accuratezza infinitamente minore. Ma, come dire, la cosa non è che è venuta in mente subito. Il dataset iniziale di training era un dataset che sembrava normale alla persona che l'ha utilizzato, perché evidentemente faceva parte di un gruppo etnico molto specifico. E quindi chiaramente se non si sta attenti, un'AI trainata nel Wisconsin non è la stessa cosa di un'AI trainata in Marocco. E siccome la tecnologia si fa più in America che in altri posti, o comunque si fa in modo non esattamente, diciamo, inclusivo, insomma, esatto. Questo si porta delle impronte importanti. Ma ascolta, detta così tra noi, non ci sente nessuno, ma tu sei ottimista o sei molto preoccupata? Non sono così ottimista, nel senso che come davanti a tutti gli strumenti potenti dipende da cosa se ne fa degli strumenti potenti, e diciamo il genere umano spesso non si è distinto per fare cose ottime con gli strumenti potenti, per cui in generale secondo me un po' di preoccupazione è necessaria. Poi dopodiché il progresso non è che puoi tirare il freno a mano, e anzi tendenzialmente è meglio accoglierlo e cercare di capire in che modo è migliorativo delle vite. Sicuramente lo sarà. Io poi non ho citato una serie di cose, ma anche solo nell'ambito medico, in tantissimi ambiti in cui può fare la differenza, l'intelligenza artificiale sta assolutamente facendo del bene. Penso sicuramente che non possiamo dire che le cose non cambieranno, cioè io vedo sicuramente, non so, penso che dovremmo smettere di competere sulla musica che funziona di più per fare da sottofondo ai cocktail, perché tanto la farà già l'AI, e questo è un male perché qualcuno perderà il lavoro, ma è un bene perché magari noi possiamo dedicarci a della musica migliore di quella d'ascensore. Quindi ogni cosa penso che avrà un bene e un male. La musica non è finita quando sono arrivati i synth, non è finita quando è arrivata l'auto Tune, non è finita quando è arrivato qualunque progresso, quindi non finirà sicuramente. Però è vero che i synth hanno cambiato il modo in cui si produce la musica, l'autotune ha cambiato il modo in cui giudichi una performance, quindi ogni cosa implica i suoi cambiamenti, e non per forza i cambiamenti sono privi di sofferenza, diciamo. Quindi non mi sento di dire che sono ottimista del tipo sì, andiamo, corriamo verso questa rivoluzione senza farci domande. Però facendosi le domande giuste, avendo le giuste accortezze, in realtà appunto si tratta di utilizzare bene uno strumento molto figo. Un'ultimissima domanda, così un aneddoto per chiudere, un aneddoto riguardo alla tua esperienza, no, di interazione quotidiana con l'intelligenza artificiale, qualcosa che tu consideri, non lo so, istruttivo, divertente, rivelatore, o magari le tre cose insieme, una battuta così per chiudere la nostra chiacchierata. Un esempio interessante intanto è il fatto, la mia interazione quotidiana con, cioè quotidiana, più o meno quotidiana con ChatGPT e similari, io trovo molto rivelatore della scarsa intelligenza, e quindi in qualche modo anche del fatto che c'è differenza tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, il fatto che recentemente un mio amico l'abbia usato per fare le proporzioni di un dolce, che aveva le proporzioni per una torta sola per quattro persone, voleva farla per 12, mi pare. L'ha messo su senza pensare su GPT dicendo mi fai le proporzioni di cosa devo comprare, è andata al supermercato con la lista e si è trovato a dover comprare qualcosa come 16 litri di latte per fare una torta. E quindi a un certo punto si è messo lì a ricontrollare i calcoli e i calcoli erano completamente inventati, non era assolutamente vero quello che ChatGPT gli aveva detto. Di contro, allo stesso tempo, succedono delle cose incredibili, come se tu probabilmente chiedi a ChatGPT di venderti quella torta, ti fa il miglior copy per venderti la torta. Quindi questo lo trovo molto divertente, così come molte altre allucinazioni che hanno questi chatbot. Appunto, è quel divertimento un po' con il brividino dietro, però recentemente si è anche visto qualcuno che è andato in tribunale per orare una causa citando dei precedenti che non esistevano, che erano stati completamente allucinati GPT. È un gran creativo per certi versi. Comunque, insomma, ce ne sarà ancora da parlare di tutto questo nei prossimi anni da tanti punti di vista. Noi, Irene, ti ringraziamo davvero di averci accompagnato quest'oggi a Zibaldone. Ricordo che Irene Buselli è ricercatrice in intelligenza artificiale presso l'Università di Genova, oltre ad essere cantautrice, e continueremo ad ascoltarle, a farvela ascoltare. Irene, grazie, a presto. Grazie, ciao. Gli Stati Uniti hanno abolito le storie di Zio Paperone quando faceva il lustrascarpe a Glasgow per fermare l'immigrazione illegale. Ma Trump smentisce: l'ho fatto solo perché credevo che fosse amico di Epstein. Non si può uscire sul balcone, è allarme Vespa Orientalis, più grandi e aggressive delle vespe comuni, pesano quasi 200 kg, si sono moltiplicate a causa del riscaldamento globale e si sono adattate all'habitat della città, con le loro casette di legno ai parchi abusivi. I leader del centrodestra propongono un condono edilizio da favola, tutto made in Italy. Secondo Valditara funzioneranno anche per l'educazione sessuale a scuola. 9 ragazzi su 10 usano ogni giorno l'intelligenza artificiale. Di questi, quasi la metà le chiede se Carlo Verdone potrebbe prevenire milioni di morti al giorno. Insieme all'ex terrorista Al-Sharaa e alla chitarra di Alberto Cospirazionelli, carabiniere, il 38enne di Biella. Lusso, tecnologia e psicofarmaci, gruppi di stranieri avrebbero pagato per farsi portare nei centri migranti dell'Albania che però hanno trovato vuoti. La premier, funzioneranno, loro pensino a sparare e parlino meno. E avete sentito che dopo l'intelligenza artificiale parliamo anche appunto di news, ma sono le news del nostro Fausto De Salvia, le ultimissime che ci mostrano in un altro modo la realtà. E prima Banzo c'era anche un brano, insomma, che era anche quello con l'intelligenza artificiale, ma ne parliamo tra poco. Prima di tu qualcosa sulle ultimissime, una battuta veloce perché insomma i temi sono tanti. Sono indignato da questa abolizione delle storie di Zio Paperone da parte di Trump per via di una presunta amicizia con Epstein, una coda di paglia che non finisce mai, diciamo, e spero che si possano recuperare queste storie, per esempio la saga dei paperi di Don Rosa, che è un classico del fumetto Disney. Quindi Trump, insomma, non ne azzecchi una neanche per errore, ecco. No. Comunque, a proposito di azzeccarne una, il brano di prima forse l'avete riconosciuto, era una versione particolare di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, brano del 1991, però in una versione soul stile Motown anni 60, fatta Banzo con la AI, ossia con l'intelligenza artificiale. Sì, diciamo che negli ultimi mesi sono proliferati canali di questo tipo su YouTube che si dedicano proprio a questo, cioè la riproposizione di canzoni celeberrime in chiavi completamente diverse a livello di arrangiamento, e devo dire che la Motown in generale e il soul vanno fortissimo, forse perché hanno delle caratteristiche molto connotate, non lo so. E questo brano proviene da un canale di un certo Tony Soprano, citazione della serie, immagino. Aveva circa 4.000 iscritti quando ho trovato il brano, e anche un Patreon, se volete sostenere il suo processo di creazione, non credo sia speculazione, proprio quei Patreon di sussistenza. È curioso perché l'ubicazione geografica indicata nel Patreon è la Moldavia, non so se sia vera o no, però è una cosa abbastanza curiosa. Comunque niente, diciamo che se l'intelligenza artificiale è usata così e viene annunciata chiaramente, non c'è nulla di ambiguo e nulla di spiacevole, è un divertismodo appunto. Noi adesso invece torniamo indietro con un brano reale di Franz Gall, Der Computer Nummer 3, il computer numero 3, era il 1968, poi vi raccontiamo qualcosa su questo brano, adesso andatevelo a ascoltare subito qui. Der Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Boy, und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Der Computer. Kragen 39, Schuhgröße 46, Stopp. Der Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Boy, und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Lange war ich einsam, heute bin ich verliebt, und nur darum ist das so, weil die Technik Computer Nummer 3 sucht für mich den richtigen Boy, und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Der Computer. Von vielen Millionen 20 Jahre, schwarze Haare, vom Beruf Vertreter, Kennzeichen Geld wie Heu. Oh, der Computer, Nummer 3, sucht für mich den richtigen Boy. Und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Beh, non male questa canzone di quasi ormai 60 anni fa della protetta di Serge Gainsbourg, Franz Gall, che ci porta questo computer, un po' questi cervelloni elettronici dell'epoca, no? Anche rappresentati molto nella cinematografia, Banzo. Beh sì, l'immagine è proprio quella, cioè questo cervellone elettronico che fra molti milioni di possibilità, file milioni, scegli un partner per la voce narrante con soddisfazione di ambe le parti, questo viene precisato nel testo, e quindi diciamo che sì, c'è questo immaginario un po' retro adesso del cervellone, però questo procedimento ci fa pensare un po' alle agenzie matrimoniali, ma soprattutto a Tinder e Similia, perché è un po' quello il procedimento. Questa canzone di Franz Gall, che era francese, però ha inciso molte canzoni in tedesco, altrimenti si sarebbe chiamata Deutschland Gall, partecipò a un concorso del canale tedesco ZDF, c'erano circa 495 partecipanti, arrivò in finale, venne eseguita con la Filarmonica di Berlino con questo testo qui, che parla di un cervellone elettronico che ti trova l'amore, ecco. Guarda un po' te, niente male, niente male. Noi adesso però invece andiamo un po' più a nord e troviamo un'altra canzone, qualche anno dopo, era il 73, dove c'è anche qui un computer però che insomma è spaventato, ferito dai cacciavite che lo stanno smontando per via del suo malfunzionamento. La canzone di Roy Wood, il titolo è Miss Clark and the Computer. Wood, che purtroppo è stato un Brexiter, però ha fatto musicalmente delle belle cose negli anni 60, 70, 80, insomma ha fondato gruppi importanti come The Move, Electric Light Orchestra, The Wizard, ma tra i 70 e gli 80 ha anche inciso 4 album da solista, tra cui questo Boulders, proprio nel 1973. Andiamo a ascoltarci questa sua canzone che ci parla di un'altra versione fatta da umani, non da intelligenza artificiale, della tecnologia, dei computer, soprattutto in un'epoca in cui erano qualcosa di molto nuovo, come gli anni 70. My heart away. Why don't you touch me? function my inner brain. Screwdriver so sharp, now I'm scared, Miss Clark. Miss Clark, Miss Clark, don't take my heart away. Proprio una piccola perla questo brano di Roy Wood. Banzo, siamo arrivati ormai praticamente alla fine di questa puntata di Zibaldone, ci resta ancora un po' di tempo anche per annunciare l'ultimo brano, un brano che ovviamente ha a che fare, è l'ultimo trago, ma non è un ultimo trago un po' come sempre, come tradizione, è un po' più particolare quest'oggi. Sì, beh, d'altronde, visto che abbiamo intervistato Irene Buselli, che però non ci ha parlato della sua carriera musicale, abbiamo ovviamente ricordato che è cantautrice, ci sembra giusto farvi ascoltare un suo brano per concludere la puntata in bellezza. Avevamo trasmesso un brano di Irene Buselli in uno dei primissimi Rapporto Italia a suo tempo, ma questa canzone non fa parte del suo album d'esordio Io del 2023, ed è stata presentata nella serata conclusiva del premio Tenco nel 2024, si intitola Scegli con cura, è un brano che, per citare quello, come si diceva, e come d'altronde anche il suo disco d'esordio aveva dimostrato, ci ricorda che le parole sono importanti e costruiscono delle immagini che evocano sensazioni ben precise, cioè quel mi fa male tutto nel testo che è ossessivo e catartico, quindi ci sembrava giusto chiudere con Irene Buselli e ricordare, diciamo, le sue due facce, i suoi due volti, quello scientifico e quello artistico, diciamo così. Sì, tra l'altro è in un tour che si chiuderà la prossima settimana, praticamente il 30 novembre, in cui ha suonato nei luoghi più disparati, no? Da un'area archeologica alla chiesa dell'Albergo dei Poveri a Genova, anche in giro per l'Europa, a Madrid, all'Istituto Italiano di Cultura. Ecco, è anche importante ricordare che Irene Buselli, per quanto insomma abbia una carriera ancora breve perché è molto giovane, ha già vinto il premio Bindi e il premio della critica, e per il miglior testo il premio Bianca da Ponte nel 2023, e il suo primo album, appunto Io, l'abbiamo seguito e ha avuto molto successo, senza poi contare quello di cui parlavamo anche proprio con lei, no? Che è stata fondatrice di Canta Fino a 10, questo collettivo femminista di cantautrice unite proprio nello sforzo di affermare uno spazio per le donne nella scena musicale italiana, cosa molto complicata. E credo che prima di lanciare il brano, in questi 30 secondi che ci rimangono, è utile leggere una citazione di Irene Buselli che ha presentato questa canzone, no? Irene dice: ho pensato per tutta la vita che il punto fosse avere spalle forti per reggerci sopra tutti i pesi e resistere agli urti. Solo da poco e con fatica ho capito che è meglio avere spalle leggere, fosse anche solo per non indolenzire le ali. È un canto un po' amaro quello che ne è venuto fuori, ma anche liberatorio. Un sussurro che cresce lentamente prima di arrivare a dire ad alta voce «La cosa per me più difficile, lasciare andare non è indolore». Ma forse non c'è altro modo per essere liberi. E con questa canzone, che appunto si intitola Scegli con cura, noi ci salutiamo, ci ritroviamo venerdì prossimo per un'altra puntata di Zibaldone. Come sempre ricordava il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galvana, alle 17:55 diceva Banzo tutti i venerdì. A proposito di franchismo, intanto sono passati 50 anni dalla morte di Francisco Franco ed è un vero peccato che non ne siano passati molti di più. Lo ricorderemo l'anno prossimo e saremo un pochino più contenti. Banzo, buon venerdì sera a tutti, godetevi questa canzone di René Buselli, Scegli con cura. Scegli con cura le cose a cui vuoi dare peso, che poi quel peso ti tocca portarlo con te. Sarà più facile il viaggio se parti leggero. E caricarsi le spalle non serve a un granché. Me l'hai ripetuto così tante volte che è stato difficile dimenticarlo, ma ci ho messo l'impegno, io ci ho messo la forza di chi fa di tutto per non ascoltare. Ed ora ho spalle più larghe di me, ora spalle più larghe di me. Potrei reggerci sopra a tutto il peso del mondo, ma il mondo sulle mie spalle non c'è. Scegli con cura i rimorsi che vuoi conservare. Conservare ogni cosa, lo sai, non si può. Scegli da quali pensieri lasciarti abitare, che dare spazio a ogni cosa è meglio di no. Avevi ragione più di quanto vorrei, ma non sono mai stata capace a imparare dagli errori degli altri, risparmiandomi i miei, così anche stavolta sbagliare. Ed ora ho spalle più larghe di me, ora spalle più larghe di me. Potrei reggerci sopra a tutto il peso del mondo, ma il mondo sulle mie spalle non c'è. Ed ora che ho spalle più larghe dei piedi, che poco equilibrio, moltissimi freni, anche lasciarsi andare uno strano dolore fatica, un pochino d'amore per tutti i rimpianti che mi porto addosso, per tutti i non detti, per tutti i non posso. E poi lasciarsi andare ti togli il controllo, io ho sempre tenuto la testa sul collo, scordandomi il cuore un po' dappertutto. Io ti rilasso le spalle, mi fa male tutto, oh mi fa male tutto, oh mi fa male. Scegli con cura le cose a cui vuoi dare peso, che poi quel peso diventa una parte di te. Sarà più facile il viaggio se resti leggero. Nel mondo stai in piedi, anche senza di te.